A pochi giorni dalla strage che è stata compiuta in Turchia ad Ankara, dove hanno perso la vita 128 compagne e compagni, attivisti curdi e turchi, e ci sono 516 feriti. 128 di noi che sono stati uccisi erano scesi in piazza per una manifestazione per la pace, una manifestazione contro la guerra di Erdogan, e del governo turco contro le popolazioni curde. Una guerra che è iniziata già pochi giorni prima delle scorse elezioni di luglio e a meno di un mese dalle prossime elezioni politiche in Turchia. Il 5 luglio già due bombe erano esplose a Diyarbakir, Ahmed, la capitale del Kurdistan, durante un comizio. Poi c'era stato il 20 luglio l'attentato, anche lì un'altra strage, all'Amara Center di Suruç, in cui erano morti 33 compagni e compagne. E poi i bombardamenti quest'estate contro, diciamo, le postazioni del PKK, ma in realtà contro la popolazione civile del Kurdistan, che da più di 2 mesi viene portata avanti, attacchi, torture, omicidi contro la popolazione. A questo proposito, vi vogliamo far ascoltare le parole di Özlem, la presidente dell'Ufficio di Informazioni del Kurdistan in Italia, che inquadra la situazione, la politica che stanno portando avanti le popolazioni curde e la strategia della tensione e del terrore che sta portando avanti il governo turco, il tutto appunto in vista delle elezioni del 1 novembre. Ascoltiamola da un'intervista rilasciata da Özlem a Radio Onda d'Urto. Sì, come abbiamo dichiarato anche i primi giorni quando abbiamo sentito, condanniamo questo attacco che è stato alla Marcia per la Pace di Ankara. È stata una marcia in cui tutti i popoli in Turchia volevano fermare questa guerra in atto subito dopo dell'elezione di 7 giugno, che è stata una guerra di Erdogan perché non aveva vinto. Cioè, viviamo un periodo di un terrore di Stato che terribilmente attacca senza pietà, vuole eliminare totalmente sia i voti che anche violando tutti i tipi di diritti umani, dell'ecologia, di essere umano che per noi è molto più toccante di tutto. Da mesi che il governo turco, cominciando dal presidente Erdogan, presidente della Repubblica Erdogan, cerca di aumentare questa tensione, sta facendo le dichiarazioni senza finita sul TV ogni giorno per proprio attaccare sia il movimento curdo che dall'inizio cerca di unire tutti i coloro che vogliono democrazia intera per la Turchia e anche tutti quelli pacifici. Così in realtà ha messo nel suo obiettivo di eliminare prima delle elezioni, di non andare a votare. Quindi fa di tutto. Che significa? Da un lato bombarda tutte le postazioni della guerriglia, cominciando dal 24 luglio, il giorno della divisione del Kurdistan, che è la data dell'Osanna. Trattato di Losanna. Dall'altro lato entra nelle città, come avete sentito, anche Cizre, Yüksekova, Gever, Silvan, Diyarbakır, alcuni quartieri, Bismil, oggi Gjulamerge. Ci sono tantissime città che vengono assediate dai carri armati, vengono attaccati ferocemente, crollati tutti i palazzi e uccisi donne e bambini come primo obiettivo. Per fare tutto questo in realtà ha un unico obiettivo. Uno, proprio uccidere, eliminare fisicamente tutti i voti del Kurdistan, mettere paura che in realtà ormai i curdi non sono come degli anni 90, perché quando noi facciamo gli analisi dicendo che viviamo peggio degli anni 90, gli anni 90 non c'era ancora una richiesta di pace. C'era una guerra in atto, c'era una tensione enorme, un attacco molto feroce e non parlata, una guerra invisibile. Però adesso c'è una guerra, un attacco dello Stato turco alla popolazione curda turca, richieste di pace e di democrazia intera per la Turchia. E questa guerra, vedi, caso non è una guerra di una cosa, ma è una guerra di potere per lasciare il potere a Erdogan, cioè una guerra personale, una guerra di dittatorialismo che ormai in Medio Oriente, con tutte le rivoluzioni popolari, è stato negato questa richiesta. Quindi parliamo di un Stato che ormai sappiamo tutto che è collaboratore di ISIS, che ci sono tantissime impronte, documenti, tutti i suoi rappresentanti dell'AKP ogni giorno che escono dicono e dimostrano la loro collaborazione con Daesh, ISIS in Turchia. Sappiamo che loro vengono educati, vengono passati anche dall'ISIS. Quindi abbiamo sempre detto, per noi AKP, la mentalità repressiva, la mentalità che uccide, fa la guerra, è uguale a mentalità di Daesh che vuole eliminare tutta la popolazione, popoli del Medio Oriente. Questo certo di aumentare questa tensione prima delle elezioni ha un scopo principale, che non vuole lasciare il potere. Infatti per questo, per esempio l'altro ieri, solo per togliersi dal mezzo di tutti questi discorsi della guerra, il PKK ha dichiarato che dal domenica in poi farà cessato il fuoco per il bene delle elezioni. Però in realtà, vedi il caso, ad Ankara esplodono due bombe feroci che uccidono senza un minimo di prospettiva o protezione dei civili, e uccidono 120 persone, civili che richiedono proprio pace, di fermare quella guerra in corso. Però certo questa richiesta di cessato il fuoco sempre ha avuto un attacco feroce alla risposta che non riconosce né i diritti né le richieste né non porta una soluzione alla questione curda e non riconosce. Infatti tutto questo dello Stato turco in realtà ha un unico obiettivo, di non avere una politica curda, perché un paese se ha una politica sicuramente troverà anche una soluzione, oppure avrà un obiettivo per portare avanti, perché oggi c'è una popolazione che sono davvero arrabbiati al Erdogan e anche all'AKP, al partito dello Stato. Dall'altra parte ci riscono un blocco di pace come un risultato di tutti questi tipi di attacchi, perché non è che ormai nessuno sa, si parla, si discute, c'è, anche se vengono bloccati, ma c'è una opinione pubblica, c'è una stampa alternativa che cerca di dare le notizie vere. Quindi in Turchia ci sono due blocchi, un blocco richiede pace, l'altro invece chiede la guerra, e lo fa. Quindi non c'è una via di mezzo, c'è una decisione di fare o una parte o dall'altro. Quindi questo anche unifica tutte le forze democratiche per andare avanti con una elezione, perché elezioni sono un metodo di portare a una soluzione. Come abbiamo detto, la Turchia ha perso nella sua politica del Medio Oriente, ha fatto dei conti sbagliati e adesso non ha più neanche in Siria una politica permanente. Stava cercando di egemoniare tutto il Medio Oriente, diventare il sultano del Medio Oriente, non solo quelli della Turchia, ma ha fatto conti sbagliati, non ha potuto andare avanti. C'ha solo perché ha sbagliato facendo una mentalità, andare sempre contro al curdi, cioè facendo una politica contro al popolo curdo, che i curdi hanno lottato contro ISIS, certo che li ha messa in pericolo. Sta cercando di non dare, proprio non riconoscere un statuto in mezzo di questo tutto il discorso di 4 anni, di non avere un statuto per i curdi. Per questo è contro al sistema di autonomia democratica in Rojava, è contro alla, diciamo, anche se non, non, non è ben una soluzione, ma lo statuto del Kurdistan iracheno, contro all'autonomia democratica che da un bel po' il popolo i curdi della zona del Kurdistan nord, che è Bakur, della Turchia, stanno cercando di proteggersi dalle queste dei attacchi. Per questo cercano di dimostrare che il governo per loro non ha nessun significato. Quindi cercano di dare la loro voce, di costruire la loro vita se stanno contro a un sistema. Quindi sappiamo che lo Stato sta facendo e farà anche fino al 1° novembre un attacco feroce, continuerà a fare i terrori dello Stato sia in Turchia che in tutto il Kurdistan, per mettere paura ai amici, ai quelli solidali, gli altri colori, gli altri popoli che stanno accanto al popolo curdo. Però voglio sottolineare che noi a tutti i costi, se crediamo una soluzione che serve in Turchia, è l'unico sistema che si può usare, è le elezioni, e abbiamo 3 settimane. Noi, come la parte curda, cerchiamo di fare al più possibile a dare questa voce di pace, di fermare questa guerra e di andare a elezioni per dimostrare proprio la volontà, le richieste del popolo a tutti quelli che vogliono eliminare, vogliono dividere, vogliono dare egemoniare le mentalità delle persone, vogliono proprio rovinare la democrazia che in realtà ognuno ce l'ha in sé. Per creare quest'area, certo che servono alcuni osservatori, osservatori internazionali che si recano in Kurdistan, in Turchia, per essere presenti a tutto questo, dimostrare anche all'Unione Europea quello che sta accadendo in Turchia, per dire che non succede, magari quello che è successo ad Ankara era più feroce, ma ogni giorno, anche ieri per esempio, hanno attaccato a Diyarbakir, hanno ucciso un giovane, oggi, stamattina hanno ucciso un altro, cioè loro non fermeranno finché i curdi si arrendono, però i curdi non si arrendono mai, il problema è quello, loro non capiscono questo fatto, infatti per questo in realtà c'è un'organizzazione molto forte, sia dall'LDP che organizza tutte le elezioni, cerca di unificare tutte le forze, non solo curdi, perché quelli che sono caduti sono martiri di pace, e quando vediamo le loro identità sono maggior parte tutte le rappresentanti del circolo, del GHP, i sindacati turchi, i giovani, i bracci delle donne, sono quelli davvero quelli che si sentono responsabilità di creare pace in Turchia. Quindi attaccare loro, attaccare questa volontà, certo che non verrà accettato. Finché le elezioni del 1° novembre avrà un successo, tutte queste forze per dare una risposta anche ai martiri, per dimostrare quei sentimenti che ci fanno soffrire della loro mancanza, dobbiamo lavorare per dimostrare, per unificare tutte le forze, per dimostrare che ci sarà una pace, ci sarà una democrazia, ci sarà una convivenza tra i popoli, nessuno può dividere anche il popolo turco e curdo in Turchia da un bel po' di tempo. Quindi per questo noi come ufficio di informazione del Kurdistan abbiamo una prospettiva di mandare le delegazioni internazionali anche dall'Italia, non dico del resto dell'Europa, perché ci saranno tantissimi internazionalisti che vogliono dimostrare la loro solidarietà e proprio con il loro corpo, seguendo tutto, osservando tutto il percorso delle elezioni, perché siano democratiche, perché non dico solo uccide, ma sta cercando legalmente anche di cambiare le leggi, di trasferire tutti i luoghi dei seggi, perché la popolazione non possa andare a votare, oppure sta cercando di fare tutti i tipi di imbrogli per bloccare a non andare a votare. Quindi noi manderemo anche da qui, cominciando dai parlamentari, giornalisti, giuristi, soprattutto anche della società civile, dei sindacati, di essere presenti nei vari seggi dove abbiamo proprio preoccupazione totale. Non dico solo in Turchia, non dico solo in Kurdistan, ma anche in Turchia, in vari luoghi dove sono presenti queste richieste di pace e si dimostrano. Abbiamo sentito dalla voce di Özlem di Wiki Onlus. Özlem è la presidente dell'ufficio di informazione del Kurdistan in Italia. Abbiamo sentito dalla sua voce le tante questioni che sono in campo. Özlem continua commentando gli effetti della strage sul voto del 1° novembre in Turchia per le elezioni. In realtà anche i fatti delle manifestazioni di ieri, del giorno stesso, nelle altre città, cominciando da Istanbul, da Izmirne, dall'altra parte della Turchia e Kurdistan, è una dimostrazione del proprio riconoscimento di accettare ormai c'è un terrorismo di Stato. C'è un terrorismo di Stato che è riconosciuto da tutta la popolazione, perché cioè sono morti gente, che giovani che volevano solo dimostrare la loro pace. E fare una cosa, un attentato ad Ankara, in un luogo centrale, cioè centrale di tutta la sicurezza, di non avere neanche un poliziotto intorno, questo già è una dimostrazione totale che hanno programmato di questo fatto. E tutto questo accade davanti agli occhi delle persone, anche di quelli che non sanno niente. Certo, Erdogan sta giocando le carte di raccogliere tutti i voti dei fascisti, intendo di quelli che sono davvero incapaci di analizzare i fatti e non hanno interesse di capire neanche, non guardano neanche TV, non fanno niente. Cerca di raccogliere loro, cerca di usare la bandiera turca per proprio dividere la popolazione. Sta mettendo ogni tipo di mentalità di terrore contro la popolazione. Sta usando certo la stampa, per esempio, quando vuole sempre mette il censure alla stampa per non divulgare le notizie, oppure ogni cosa che viene detto da Erdogan dovete sempre pensare che è bugie. Ti giuro, cioè voglio sottolineare questa cosa, questi 2 mesi tutte le parole che hanno usato sia HP che Erdogan hanno detto le bugie guardando gli occhi delle persone. Pensa, vi do un esempio, il giorno stesso del massacro il Davutoğlu, che è il primo ministro della Turchia, esce e dice che questo attentato è stato fatto dal PKK, anche da ISIS, potrebbe essere tutti e due, però proprio minacciando il partito di HDP subito, dicendo che io non faccio niente, che non accetto, non riconosco perché loro hanno fatto. Potrebbero essere anche loro stessi a fare questo tipo di attentato, cioè alla loro manifestazione, per avere i voti, pensate. Ci sono centinaia feriti per terra, non mandano le ambulanze, bloccano, non ci sono i poliziotti intorno ad aiutare, anzi quando vengono subito usano i gas lacrimogeni sui feriti, quelli per terra che non riescono neanche a respirare. È un governo così, è un Stato così. Allora il popolo turco ormai ha visto con i suoi occhi tutto questo fatto e secondo me ha deciso di non accettare più, a non venire a giochi dell'Erdogan, perché Erdogan fa tutto per sé, non per il bene dello Stato turco, non per il bene dell'identità turca, nemmeno per l'economia della Turchia, ormai tutti sanno. Per questo ci sarà, come anche all'inizio ho detto, ormai ci sono due blocchi, due parti, non c'è una via, non c'è quelli che cercheranno di equilibrare il bene e il male, no. C'è la guerra, c'è la pace. chi vuole la guerra deve prendere la sua posizione, quelli che prenderà della posizione di pace deve lavorare per ricostruire quella pace. Quindi siamo nella fase di una decisione totale per la Turchia, per tutta la popolazione della Turchia. Ormai non c'è nessun governo, nessun potere riconosciuto, sono tutti illegali, sono maggior parte mafiosi, sono ladri, ormai è ogni giorno che vengono dimostrate tutte le impronte, le cose che rubano, che proprio fanno il male alla popolazione, quelli che cercano di governare il paese, e usano tutti gli strumenti militari, usano tutti i servizi segreti, hanno messo per esempio in Kurdistan, hanno mandato tutte le loro forze speciali per proprio uccidere le persone. Abbiamo vissuto Gisre che 9 giorni è rimasto sotto coprifuoco, senza elettricità, l'acqua, pane, niente. Sono morti più di 21 persone, tranne bambine e donne. Le persone, i loro morti non ha potuto mandare all'ospedale perché l'ospedale non accettava i corpi. Cioè, pensate in un'area così, tutte le cose in un momento di caos, però noi crediamo che tutti i tipi, quando tu arrivi a cima, devi decidere o andare avanti oppure buttarti giù. Erdogan si è buttato giù, Erdogan non ci sarà mai più. Dopo le elezioni del 1 novembre ormai non avrà nessun potere, lo sa anche lui che perderà, per questo usa tutte le sue metodi per crollare tutta la Turchia. I popoli difenderanno la democrazia e creeranno quella mentalità di convivenza tra i popoli, perché non ci sono solo i curdi e i turchi in Turchia, ci sono tantissime minoranze etniche e religioni in cui era per la prima volta della storia turca, dopo 7 giugno mandavano le loro rappresentanti eletti nel gruppo di HDP. Quindi io sì, magari siamo in un momento molto molto pesante, ma ho anche fiducia in senso, credo alla volontà di pace del popolo, quindi credo che loro, se restano nella loro linea di pace e insistono per creare questa democrazia per la Turchia, ce la faranno, ce l'hanno fatto sempre. Quindi l'importante è di dare una solidarietà a questa richiesta di pace, non alla guerra, non provocare la popolazione, non mettere paura, ma dare la fiducia, dare la volontà di pace e di essere solidale, di facilitare le loro vie. Questo secondo me è importante, quello che dobbiamo fare da qui. Infatti per questo abbiamo fatto anche gli appelli ai stati ai stati dell'Europa, ai stati che stanno in qualche modo stanno in contatto con Erdogan, con il governo turco, con il stato turco, di non riconoscere, di farli fermare questi contatti, oppure di mettersi in mezzo per trovare una soluzione, perché non dimentichiamo, se questa guerra continua anche dopo le elezioni, se il blocco di pace non vinca in Turchia, continuerà una guerra infinita che porterà tantissime immigrazioni proprio dei turchi curdi della Turchia in Europa. Anche questo è un pericolo totale. Per non arrivare a questo punto, perché comunque l'immigrazione per l'Europa c'è stato sempre un problema, problema grosso, non riesce a sopportare anche questo problema, allora fermarli già da adesso, se vediamo che c'è questo pericolo anche per l'Europa. Non dimentichiamo che ci sono tantissime imprese in Turchia, tantissimi lavori del paese europei che stanno in Turchia, non dico che questi non avranno dannaggio di questa guerra, perché la Turchia non è come Siria, non è come Iran, non è come Arabia Saudita. La Turchia è molto vicina dell'Europa, sta cercando di entrare nell'Unione Europea, e l'Unione Europea ha bisogno in qualche maniera della Turchia, sappiamo. però una Turchia così, che non riconosce niente, è peggio della Siria, è peggio della Siria, intendo con la ferocità dello terrore dello Stato, non debba accettare, non debba accettare da adesso. Quindi devono mettersi subito di prendere la loro responsabilità di fermare questa guerra, di bloccare proprio Erdogan, di dare un po' di solidarietà, un po' di riconoscimento a questa richiesta popolare, pacifica, democratica in Turchia.